è nato sulla scia del precedente, è uscito sempre per Paper First, che era su Piazza Fontana, e la volontà di raccontare storie legate ai grandi eventi stragisti che hanno riguardato gli anni della strategia della tensione. Ovviamente, essendo periodo di grandi novità per quello che riguarda la strage alla stazione di Bologna rispetto a Piazza Fontana, lo sforzo è stato cercare di raccontare, di storicizzare quello che sta accadendo. Cioè, noi abbiamo delle novità, appunto in autunno ci potrà essere l'udienza preliminare per quattro persone per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio nella cosiddetta indagine mandanti, uno dei filoni che sta sviluppando la Procura Generale, e noi abbiamo cercato di raccontare il capitolo precedente, cioè chi sono queste persone, da dove arrivano, che cosa è successo e qual è stato il loro ruolo negli anni della strategia della tensione e ovviamente in quale modo già in passato sono stati chiamati a rispondere della strage alla stazione. Ecco, il titolo del tuo libro è mutuato da un plico trovato a Licio Gelli durante un arresto, se non sbaglio, proprio dossier Bologna. Sì, in quel caso era il documento Bologna e è un documento molto molto importante che è stato trovato alcuni anni fa dall'associazione Vittime. Non era un documento inedito, ma lo era in relazione alla strage di Bologna. Venne trovato addosso a Licio Gelli, che ce l'aveva in un taschino della giacca, nel settembre del 1982, quando venne arrestato a Ginevra. E la cosa particolare di questo documento, che non era l'unico che Gelli portava addosso nella borsa che aveva con sé, è che il frontespizio del documento è proprio Bologna, seguito da un codice che corrisponde ad un conto corrente. Il documento poi venne acquisito agli atti del procedimento relativo al fallimento del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. Nei meandri dell'indagine sul crack dell'Ambrosiano si perse l'intestazione Bologna e non venne mai trasmesso alla Procura di Bologna. Alcuni anni fa, in un'opera incessante dell'Associazione Vittime, venne individuato e si cominciò una rilettura diversa del documento, che nell'ipotesi dell'accusa sarebbe la movimentazione di denaro precedente e immediatamente successiva per la strage, una sorta di remunerazione delle persone. È un documento piuttosto misterioso a leggerlo, nel senso che tutti i riferimenti sono in codice, si legge DIF Milano, Difesa Roma, per i quali Gelli, quando venne interrogato dai magistrati di Milano, disse che legava a necessità di spese difensive, che ai tempi, stiamo parlando di un arco di tempo che va dal 16 febbraio del 1979 al marzo del 1981, ai primi giorni di marzo, per cui prima della perquisizione dell'11 marzo dell'81 che portò alla scoperta delle liste della P2, Gelli in quel periodo comunque non aveva bisogno di spese economiche. E sono poi riferimenti criptici, ma che poi riconducono, almeno nel lavoro di ricostruzione che è stato fatto, a persone che poi compaiono nelle carte più recenti, come Federico Umberto D'Amato, che è stato fino al 74 il capo dell'ufficio affari riservati del Viminale, poi è andato a comandare la polizia di frontiera, Mario Tedeschi, che era il direttore del Borghese, è stato parlamentare del Movimento Sociale, lo stesso Gelli, che in questa nuova fase di indagine non ha più il ruolo del depistatore. Gelli è già stato condannato per i depistaggi alla strage di Bologna, ma assume appunto nell'ottica accusatoria quello del mandante del sostenitore finanziario. Nella stagione delle stragi, nella stagione della strategia della tensione in Italia è diventato quasi un senso comune il fatto che tutta la verità non si può avere. E in realtà sappiamo molte cose. È vicino questo tassello per avere una completa verità? Hai perfettamente ragione quando dici che sappiamo molte, molte cose. Ormai la ricostruzione degli anni che sono andati dalla strage di Piazza Fontana a quella di Bologna, sostanzialmente quegli 11 anni, sono stati ricostruiti per una percentuale che potremmo attestare sopra l'80%. Resta una percentuale di cose che ancora oggi non si sanno, si possono intuire, si possono fare dei ragionamenti che da un punto di vista logico stanno in piedi, ma questa indagine verso i mandanti della strage di Bologna sicuramente potrebbe fornire degli elementi di verità ulteriori, con una considerazione che inizia ad essere passato molto tempo da quei fatti, 40 anni dalla strage di Bologna, 50, più di 50, perché a dicembre saranno 51 dalla strage di Piazza Fontana, siamo molto vicini al momento in cui non sarà più possibile fare delle indagini giudiziarie, perché le indagini vengono fatte su persone ancora in vita e che possono rispondere in eventuali processi. Di certo comunque la documentazione che è stata messa insieme soprattutto dagli anni 90 in avanti, con prima le indagini su Piazza Fontana, poi il filone Terre per la strage di Piazza della Loggia e adesso di Bologna, forniscono tantissima documentazione che consente di fare della ricerca e dell'analisi anche in sede storica e politica. Quindi insomma potremmo, anzi già in parte abbiamo, però potremmo concludere la questione della verità storica, ma non è detto che ci sia quella giudiziaria. Esatto. Esattamente, dipenderà appunto da quelli che saranno i tempi giudiziari, che in questo periodo hanno risentito anche dell'ovvia situazione sanitaria. Fino allo scorso 30 giugno le attività non urgenti erano state bloccate, però diciamo che comunque la ricerca in sede extragiudiziaria può tranquillamente andare avanti e si può ricostruire un pezzo molto importante della storia d'Italia.